GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Gorizia, ragazzo di 17 anni, annega facendo il bagno nell'Isonzo, era un tunisino ospite del centro salesiano. Varzi, la settimana cruciale per i lavoratori dello stabilimento di Bagnoli che il gruppo finlandese vorrebbe chiudere, le tappe del confronto governo-azienda. Marina Puntafaro di Lignano passa una finanziaria britannica, operazione milionaria per una struttura da 1200 posti barca, intervista con Gennaro Coretti, pioniere del settore. Sauris e i 160 anni del prosciuttificio, alle origini di una tradizione diventata eccellenza. Siccità e viti resistenti a Manzano, confronto di esperti. Sappada, arriva il nuovo medico di medicina generale. Da 2 settimane 1300 potenziali pazienti erano scoperti. Sagra dei Josei e rievocazioni storiche per Sacile, Valvasone e Palmanova, il pieno di visitatori. Udinese capoccia, 4 reti alla Roma di Mourinho. La squadra di Sottil in classifica incalza le battistrada Napoli e Milan. 7:19 minuti di lunedì 5 settembre. Buona giornata da Giampaolo Mauro e Lorenzo Gallinzoni. Abbiamo cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso sul Friuli Venezia Giulia. Queste temperature registrate alle 6. A Trieste 20 gradi e mezzo con mare calmo e temperatura dell'acqua 23 gradi e 5 decimi. A Udine e Gorizia 18 gradi, a Pordenone 17 e 5. Nell'area montana a Tolmezzo 15 gradi e 5 decimi, a Tarvisio e sul Piancavallo 10 gradi, a Sappada 9 e mezzo, a Forni di Sopra 12 e mezzo. In quota su Lussari 11 gradi, sullo Zoncolan 10 e mezzo. Sulla costa Lignano 21 e 5 decimi, a Grado 20 e 5 decimi, con temperatura del mare a 24 gradi e 5 decimi. Le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per la giornata odierna: su pianura e costa cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti poco nuvoloso la mattina, variabile nel pomeriggio quando non saranno del tutto esclusi qualche locale breve pioggia o qualche locale rovescio, più probabili in Carnia, 20 a regime di brezza. In apertura la cronaca nera con la tragedia accaduta ieri pomeriggio a Gorizia sull'Isonzo, non lontano dal parco di Piuma. Ha perso la vita un ragazzo di 17 anni annegato dopo un tuffo nel fiume. Si tratta di un giovane tunisino ospite da oltre un anno del centro San Luigi, la struttura salesiana di via Don Bosco, che accoglie minori stranieri non accompagnati. I temi del lavoro: si apre una settimana fondamentale per il futuro dei lavoratori Wärtsilä, sui quali incombe la minaccia del licenziamento. La manifestazione di sabato scorso a Trieste ha consolidato il fronte delle istituzioni, dei sindacati e della politica, che vogliono contrastare la fuga del gruppo finlandese da San Dorligo della Valle, ma ora non si può più sbagliare alcuna partita. Archiviata la grande manifestazione per i lavoratori Wärtsilä, si apre una fase di 10 giorni potenzialmente decisiva. La prima tappa è il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico mercoledì, seguita dalla presentazione del piano aziendale per la mitigazione delle ricadute sociali. Wärtsilä dovrà farlo entro lunedì 12 settembre, secondo i termini di legge. Il 14 settembre, al Tribunale di Trieste, l'udienza per la condotta antisindacale denunciata dai lavoratori. In data ancora da definirsi l'udienza per il ricorso presentato dalla Regione. La speranza in prima battuta è che Wärtsilä apra qualche spiraglio, cosa che finora è mancata. In ogni comunicato la dirigenza finlandese ha ribadito chiaramente l'intenzione di dismettere la produzione dei motori di Trieste. Se gli scandinavi dovessero dimostrarsi inamovibili, le armi a disposizione del fronte sindacale resterebbero le stesse. Da un lato la possibilità che un giudice invalidi la procedura o la sospenda, allungando di non poco i tempi. Novità potrebbero arrivare anche dal Parlamento con un emendamento ad hoc. Dall'altro lato, massima pressione con scioperi e altre azioni legali mirate a boicottare l'azienda in coordinamento con i portuali. I primi a pagarne indirettamente le conseguenze, come è noto, sono i sudcoreani di Daewoo, che non riescono a ritirare i motori acquistati da Wärtsilä e bloccati nei pressi del canale navigabile. La nave UHL Fusion è ferma in rada da oltre una settimana, in attesa di 2 autorizzazioni che potrebbero essere anche negate e senza le quali non possono caricare i 12 propulsori, operazione peraltro comunque complicata proprio dallo sciopero dei portuali. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. 100 posti di lavoro in 4 aziende friulane li offrono le acciaierie Bertoli Safau di Pozzuolo, le Modine di Pocenia, la Sisecam Glass e la la Taglif di San Giorgio di Nogaro. I colloqui si svolgeranno il 22 settembre, organizzati dalla Regione, dal Comune di Muzzana del Turniano e da Adecco. L'appuntamento sarà presentato alla stampa questa mattina a Udine, nella sede della Regione. Anche l'Ater di Gorizia cerca personale, attualmente 3 i bandi attivi per l'assunzione a tempo indeterminato di 5 addetti. Il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 16 settembre. A breve saranno pubblicate sul sito aziendale ulteriori selezioni per la copertura di posizione sia in area progettazione ed esecuzione lavori sia in area amministrativa. Operazione milionaria su Punta Faro di Lignano Sabbiadoro, uno dei più grandi marina dell'Alto Adriatico. La proprietà passa a CVC Capital Partners, una società finanziaria britannica con sede in Lussemburgo che ha interessi in diversi settori, dal retail al comparto salute, dallo sport all'industria chimica e manifatturiera. La società, che conta su investitori da tutto il mondo, controlla anche un network di porti turistici di lusso in giro per il Mediterraneo e negli Emirati Arabi Uniti, chiamato D-Marin, ed è all'interno di questa rete che Punta Faro verrà inserita. Una operazione motivata dalla posizione strategica a livello geografico di Punta Faro, a metà strada tra Venezia e Trieste e di fronte alla costa istriana e dalmata. I marina regionali sono 20 e mettono a disposizione nel complesso più di 7.000 posti barca. Tutti fanno parte della rete nata 6 anni fa e strettamente connessa a quella turistica. Non si sa ancora se Marina Punta Faro continuerà a farne parte. Sullo stato di salute dei marina regionali abbiamo rivolto alcune domande a Gennaro Coretti, presidente della Darsena San Marco di Grado, pioniere della nautica, premiato nel 2022 con il riconoscimento di Confindustria. La nautica con le imbarcazioni, insieme ai camper, biciclette e case con giardino, sono le cose più appetibili dopo la clausura. I marina del Friuli Venezia Giulia che numeri hanno realizzato? Recentemente, in una riunione che si è svolta appunto a Grado, dove è la sede legale di FVG Marinas, i nostri consulenti ci hanno detto che le visualizzazioni da poche migliaia di 6-7 anni fa ormai hanno superato gli 80-90 mila all'anno e quindi siamo ben noti. Quella tra i marina del Friuli Venezia Giulia è stata tra le prime reti d'impresa del settore in Italia. Meglio mettersi in rete o giocare da soli avendo i numeri? Meglio mettersi in rete, soprattutto in una regione come la nostra, che la rete delle marine deve collegarsi a tutto il resto. E noi siamo ottimamente collegati con Turismo FVG, perché più che fare dei posteggiatori di barche, noi facciamo accoglienza turistica. Cosa ci dice il passaggio di mano di Marina Punta Faro a Lignano? Questo rientra in altre operazioni che si sono svolte sul nostro litorale, dove delle marine prestigiose come che è Marina Punta Faro possono far veramente gola a dei grossi gruppi che vedono molto lontano in questo, nel diporto nautico. Quando un marina diventa appetibile dal punto di vista dei grandi gruppi, come è successo in questo recentissimo caso? Quando comincia a superare i 400-500 più posti, poiché con questi numeri riesce a dare tutti i servizi spalmandoli attraverso i costi. Nella fattispecie il Marina di Punta Faro, che ha 1200 posti, ci si rende subito conto che, essendo poi in una località turistica, ha tante implicazioni che possono renderlo appetibile. Vediamo alcuni appuntamenti politici di oggi. Il leader della Lega Matteo Salvini sarà stasera a Marano Lagunare per un evento in programma alle vecchie pescherie. Il direttore di Libero, Pietro Senaldi, intervisterà Salvini e il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. Forza Italia, Friuli Venezia Giulia, la sfida del 25 settembre, questo è il titolo dell'incontro invece in programma a Pordenone, all'Hotel Moderno alle 18.30, partecipano il senatore Franco Dalmassi, il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, la coordinatrice regionale del partito Sandra Savino. Si chiama iNest e rappresenta una nuova e concreta opportunità offerta dal PNRR per rafforzare la collaborazione tra università e aziende sul fronte dell'innovazione applicata ai processi produttivi nell'ottica della transizione verde e digitale. Si tratta di un programma di ricerca che conta 11 soci fondatori e 13 partner pubblici e privati del Nord-Est tra università, centri di ricerca ed enti pubblici territoriali. Uno dei principali obiettivi sarà quello di realizzare progetti con il coinvolgimento delle aziende che potranno beneficiare di contributi tramite la formula dei bandi a cascata, ai quali è destinato circa il 40% del finanziamento complessivo ottenuto dal progetto iNest, che ammonta a 110 milioni di euro. La presentazione del progetto avverrà questo pomeriggio alle 16 a Palazzo Torriani a Udine. Uno dei pilastri dell'economia regionale è costituito dalle eccellenze enogastronomiche, così come per Sauris c'è il prosciutto, il marchio che lo ha reso famoso, ha compiuto 160 anni. In principio fu l'attività di un norcino, Pietro Schneider. Aveva messo a disposizione del paese di Sauris le sue conoscenze nell'ambito della conservazione delle carni di maiale e dell'affumicatura dei prosciutti. Una tradizione che risale a 160 anni fa e che nel 1962 è diventata un'attività imprenditoriale strutturata grazie a Beppino Petris, capace di raccogliere l'eredità del nonno, un prosciuttificio al quale è stato dato il nome con il quale quel ramo della famiglia Petris era conosciuto nel paese. Le ricorrenze sono state festeggiate a Sauris in un evento al quale ha partecipato tutta la comunità. Nel segno del passaggio tra generazioni ha preso corpo il progetto Bosco, 2500 alberi che verranno piantati per contribuire alla riforestazione della Vallumiei. Le prime piante sono state messe a dimora in occasione della festa. Il prosciuttificio di Sauris è una realtà importante dell'agroalimentare regionale ed è una delle principali attività produttive dell'avvaltagliamento e dell'intera Carnia. Un fatturato di 14 milioni nel 2021, quasi tutto il prodotto è destinato al mercato italiano, uno stabilimento che ha una superficie coperta di 12.000 metri quadrati e che dà lavoro a 52 addetti. Diversi fra loro sono pendolari che hanno avuto non pochi disagi nei mesi scorsi per la prolungata chiusura della principale strada di accesso a Sauris. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste partiranno oggi i lavori per la realizzazione della rotatoria definitiva tra le vie Valmaura, Palatucci e Ratto della Pileria. Dureranno poco meno di 3 mesi, compreso il risanamento dei marciapiedi di via Valmaura e strade limitrofe. Il Comune ha stanziato per l'intervento oltre 300.000 euro. Prima delle lavorazioni stradali saranno eseguiti anche lavori di manutenzione sulla rete elettrica a cura di Acegas APS Amga. A Trieste da oggi anche una serie di lavori di ripavimentazione e asfaltatura che riguarderanno tra l'altro in orario diurno da questa mattina via Fiamme Gialle, Largo Irneri e via Campo Marzio. Dureranno alcune settimane. Voltiamo pagina. Da tempo gli specialisti sono al lavoro per testare piante resistenti alla siccità. Meno pioggia significa anche un numero minore di trattamenti contro le malattie. Vale soprattutto per i vigneti. Se ne è parlato in un convegno a Manzano. Nel servizio sentiremo la voce di Matteo Lovo, presidente di Assoenologi, Friuli Venezia Giulia. È stata l'estate più difficile per la viticoltura, che in precedenza non aveva quasi mai sofferto per i problemi di scarsità di acqua. La siccità ha colpito sia vigneti bagnati solo dalla pioggia, come quelli del Colle Orientale, che quelli forniti di sistemi di irrigazione, come più frequente nella pianura friulana. In un convegno a Manzano si è fatto il punto dei problemi causati dalla siccità a tutto il settore economico che ruota attorno all'uva. La vendemmia si è salvata solo grazie alle piogge degli ultimi giorni. Rispetto a un meno 15% che avevamo dichiarato così cautelativamente in una fase prevendemmiale, ci portiamo sostanzialmente verso una fase di un meno 5-0% di variazione rispetto all'anno scorso. Ora, se avevamo paura appunto di avere tutti i precursori aromatici bruciati dal grande caldo, quello che troviamo oggi nelle nostre cantine in realtà è un prodotto di grande qualità. Finita la fase acuta dell'emergenza, il Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana ha illustrato i progetti per la creazione di 13 invasi a uso irriguo che consentirebbero di accumulare durante tutto l'anno l'acqua piovana da usare per l'irrigazione. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Questa notte a Tolmezzo sarà eseguita un'operazione di disinfestazione contro la zanzara portatrice del virus di Usutu. L'intervento avrà inizio alle ore 23:59 tramite nebulizzazione. Ricordiamo che nelle aree che verranno trattate per tutta la notte è vietato esporre cibo, animali e biancheria all'esterno e occorre tenere porte e finestre ben chiuse. Gli ortaggi in prossimità delle aree trattate non potranno essere raccolti e consumati per le 72 ore successive al trattamento e dopo la raccolta dovranno essere lavati accuratamente prima di essere consumati. A Sappada, 1330 residenti, entra oggi in servizio il nuovo medico di medicina generale. Poco più di 2 settimane fa era scaduto il contratto della professionista che l'aveva preceduto. Il nuovo medico si chiama Corrado De Luca e proviene dall'azienda sanitaria di Padova, dove ha svolto attività di medicina territoriale, ospedaliera, in pronto soccorso e area di emergenza. Con il nuovo medico, ha spiegato l'azienda sanitaria Friuli Centrale, sarà rafforzata la rete delle attività del distretto anche in previsione del prossimo avviamento nel territorio comunale di Sappada del servizio sperimentale di infermiere di comunità. Al via le iniziative messe in campo dall'Associazione De Banfield per il mese mondiale dell'Alzheimer alle 16, questo pomeriggio nella sede di Casa Viola, Trieste, l'inaugurazione della mostra Ogni vita è un capolavoro, 33 opere fotografiche che riproducono alcuni dei dipinti più famosi della storia dell'arte, soggetti delle foto sono persone con Alzheimer o altra forma di demenza. Sempre a Trieste un'altra mostra che tiene insieme arte e salute, l'altro latte dei sogni che raccoglie opere realizzate da persone che presentano disturbi dello spettro autistico, una rassegna artistica inconsueta, imprevedibile, che fa riflettere sull'importanza dell'arte intesa come un linguaggio composito alternativo a quella che viene considerata la nostra abituale comunicazione verbale. L'inaugurazione alle 18 nella Sala Xenia in Riva 3 novembre. Ora passiamo al racconto di alcuni degli avvenimenti che si sono svolti, delle manifestazioni del fine settimana in regione. È la fiera ornitologica più antica d'Europa, con ben 749 edizioni e una vastissima mostra, attrezzi per l'uccellante e migliaia di espositori da gabbia voliera. Parliamo della storica sagra degli Osei di Sacile, che ha richiamato nella località decine di migliaia di appassionati da tutto il nord Italia per ammirare uccelli di ogni specie. Nella 2 giorni sacilese un record se paragonato alle ultime edizioni. Sentiamo il servizio che si apre con una battuta di Lorena Bin, presidente della Proloco Sacile. Il voler comunque non dimenticare le nostre tradizioni è sempre più complicato, ma io credo che ce la stiamo facendo tenendo in piedi il chioccolo, lo stesso concorso Canoro, quindi l'essenza è proprio la voglia di mantenere viva tutte quelle che sono le peculiarità che hanno reso questa sagra la più famosa in Europa. Ricercati soprattutto volatili da tenere in casa, come i pappagalli, i cenerini. Massimo Boaro, allevatore. C'è ancora molto interesse, tanto quanto una volta, perciò i giovani si avvicinano, hanno bisogno di un animale da compagnia e i cenerini sono i migliori in assoluto. Molto gettonati anche i falchi, una specie di uccelli che hanno bisogno di addestramento e attenzione. Alberto Video, falconiere. Noi consigliamo sempre chi decide di fare l'acquisto, di prendere uno di questi animali, consigliamo di fare un corso di avvicinamento e un corso di addestramento. Ci vuole tanta pazienza, la passione sicuramente prima di tutto e successivamente ci si approccia a questo mondo. Proclamato il miglior tordo nella classica gara che giudica la potenza e la qualità del canto, ha vinto Gianni, volatile che vive in provincia di Treviso, allevato da Roberto Signor. Una volta i vecchi qua del Casiglio dicevano: Corina, Corina, vien qua, porta un'ombra, porta un'ombra. Erano talmente appassionati di tordi che addirittura avevano dato questa definizione. Sacile, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Valvasone la rievocazione storica medievale è stata salutata con presenze da primato, soddisfatti gli organizzatori e grande coinvolgimento tra il pubblico e i partecipanti in costume. Il Medioevo a Valvasone compie 30 anni e festeggia con 20.000 presenze e la partecipazione di tanti giovani e famiglie. Giuseppe Balducci del gruppo Artistic Furlan. Abbiamo avuto un forte aumento delle famiglie. Siamo riusciti a far passare il messaggio che è una manifestazione per famiglie e che i bambini possono vivere un'esperienza particolare nel nostro borgo. Sara Bono, presidente del gruppo Artistic Furlan. È una edizione particolare dove si nota come la gente ha bisogno di uscire, ha bisogno di divertirsi, ha bisogno di cose anche nuove, di stimoli diversi. Sono molto soddisfatta perché la partecipazione dei ragazzi dai 20 ai 30 anni è massiccia e questa è una grossa speranza ed è il nostro asso nella manica. La rievocazione conta sull'entusiasmo di 700 volontari, 500 figuranti e un centinaio di artigiani. Cosa vi appassiona di questo periodo? La magia. La magia nel Medioevo si credeva che fosse ancora possibile vederla, toccarla, sperimentarla. Da quanto tempo fa la volontaria qui al Medioevo Valvasone? 20 anni sicuramente. Che cosa le piace di questa attività, questo impegno? Stare a Valvasone con questo gruppo che è meraviglioso. Aperte anche le visite al castello con la possibilità di scoprire il piano nobile appena rinnovato. Valvasone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E in tanti hanno assistito anche alla rievocazione delle battaglie tra Venezia e gli austriaci accanto alle mura storiche di Palmanova. Palmanova torna indietro nel tempo di 400 anni, al 1615, per la grande rievocazione storica che ricostruisce la vita delle guarnigioni, le tradizioni e i mestieri, la cucina e le musiche dell'epoca. Oltre 1000 rievocatori sono arrivati in città da tutta Italia e da 15 stati europei. Indossano abiti fedelmente ricostruiti, dormono in tenda nell'accampamento, mangiano e vivono come allora. Una tradizione cominciata a Palmanova nel 1977. Mauro Zonta, vicepresidente del gruppo storico Città di Palmanova. Noi rievochiamo quello che furono l'accorpamento di tutte le truppe per andare alle guerre gradiscane o guerre del Friuli nel 1615 sotto la bandiera di Venezia e al soldo di Venezia, perché le compagnie venivano pagate con dei contratti ai capitani, non erano gli eserciti che intendiamo al giorno d'oggi. Il bastione Garzoni è il luogo dell'accampamento, dove si può osservare la vita militare e civile tra le oltre 300 tende, il lavoro degli artigiani, la cucina seicentesca. Piazza Grande è invece il teatro delle parate militari, come la sfilata delle truppe davanti al provveditore. In polveria Garzoni si incontra la bottega del mastro cartaio e quella del tipografo. Ma il centro della rievocazione sono le grandi battaglie tra la Repubblica di Venezia e la Casa d'Austria. Per il pubblico è come assistere alla storia vivente. Fantastico. La prima volta che abbiamo il piacere di vedere, perché fino all'altro giorno lavoravamo e siamo rimasti entusiasti. Curiosità per far rivedere al bambino come potevano essere gli stili di vita e gli abiti di un tempo. È bellissimo, tutta la storia che c'è dietro, tutto il lavoro dei figuranti. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono 63 i giovani studiosi delle scienze del linguaggio provenienti dall'Italia e dall'estero che da oggi partecipano a Lignano alla 46esima edizione della scuola estiva di glottologia e linguistica organizzata dall'Università di Udine con la Società Italiana di Glottologia. L'obiettivo è offrire una formazione di alto livello alle nuove generazioni di studiosi della materia e fornire un aggiornamento scientifico e un confronto culturale sui temi più attuali della ricerca nel settore della linguistica. Adesso sono le 7:40 minuti e 30 secondi, passiamo alla pagina dello sport, calcio, la notte speciale dell'Udinese, 4 reti alla Roma di Mourinho in una partita dominata sotto tutti i punti di vista, tattica, velocità, spettacolo. A bersaglio Udoji, Samardžić, Pereira e Lovric, in classifica agganciati giallorossi a quota 10 a una sola lunghezza dalle battistrada Milan e Napoli. Un Udinese incredibilmente bella di notte domina la Roma, tutto più facile grazie al gol dopo nemmeno 5 minuti di Udoji che sfrutta il tentativo di dare il pallone di petto di Karsdorp al proprio portiere e batte Rui Patricio. La Roma al quarto d'ora ha un'occasione con Dybala sventata da Silvestri, poi sono i friulani a comandare. Anche nella ripresa, quando Samardžić buca da 25 metri le mani del portiere giallorosso raddoppiando. Mourinho è nervoso, la Roma affonda in contropiede con la rete di Pereira, contropiede perfetto con assist di Makengo e gol del Tuku. Il poker è di Lovric ancora su una ripartenza. L'Udinese sale a quota 10 punti, terza vittoria di fila, serata magica per i tifosi friulani e per Andrea Sottil che pochi mesi fa allenava in Serie B e stasera ha ricevuto i complimenti di Mourinho. Una persona che stimo molto, è un allenatore che lo scopro io, mi piace molto come persona, quindi è chiaro che non ci avrei mai... Insomma, non ci avrei mai pensato a una serata del genere, ma ero convinto però che sicuramente la partita sarebbe stata difficile, ma ce la potevamo giocare, perché comunque noi abbiamo le qualità, la fisicità, l'organizzazione per giocarci la partita. Il nostro obiettivo è giocarla. Giocarla vuol dire avere coraggio e non subire solo l'avversario. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. In classifica, come detto, Udinese terza con la Roma e l'Atalanta, a una sola lunghezza dalle capoliste Milan e Napoli. Nel prossimo turno la sfida al Sassuolo sul campo di Reggio Emilia. Oggi intanto la quinta giornata si completerà con Monza-Atalanta, Salernitana-Empoli e Torino-Lecce. Parliamo di canottaggio, ancora un trionfo per le triestine Samantha Premel e Maria Elena Zerboni, che a Zevinkel in Belgio hanno conquistato il titolo europeo Under 23 nel due senza pesi leggeri. Le atlete del Saturnia poco più di un mese fa avevano vinto l'oro mondiale a Varese bissando il titolo dello scorso anno, e questa volta in finale le azzurre hanno battuto l'Ungheria. A medaglia anche Filippo Wiesenfeld, argento al timone del 4 con maschile, anche lui è un atleta del Saturnia, allenato sia nel club sia in nazionale da Spartaco Barbo. Per un soffio giù dal podio invece un altro equipaggio quasi tutto triestino, il 4 senza femminile con Alice Dorci, Ilaria Macchi e Sofia Secoli, sempre del Saturnia. E nel doppio femminile sesto posto in finale per la lignanese Alice Gnatta con l'altra azzurra Pedrola. Italia terza nel medagliere alle spalle della Romania e della Polonia. Ora passiamo al ciclismo. Il belga Emil Verstringe ha vinto la 58esima edizione del Giro del Friuli Venezia Giulia, conservando un solo secondo di vantaggio sul friulano Nicolo Buratti, vincitore della quarta e ultima frazione, 152 chilometri fra Trieste e Udine. Verstringe ha così capitalizzato al massimo il suo sesto posto nella dura tappa dello Zoncolan. Ancora ciclismo, l'austriaco Nicolas Eder, campione nazionale in carica, ha vinto la corsa in linea Trieste, Gorizia, Udine, una sorta di campionato di Alpe Adria per corridori Under 17, i partecipanti sono arrivati oltre che dal Friuli Venezia Giulia e dall'Austria anche da Slovenia e Croazia. La gara è partita dal Porto Vecchio a Trieste, dopo i passaggi tra Gorizia e Cormons si è conclusa con una volata a 3 a Udine sul rettilineo di Viale Palmanova. Eder ha preceduto il friulano Andrea Montagnier e il connazionale Vrolich. E ora apriamo la pagina della cultura e degli spettacoli. Al via da Udine la 30esima edizione della École Demeter 2022, guidata dal regista e drammaturgo argentino Claudio Tolcachir. 16 attrici e attori under 35 da 4 paesi europei lavoreranno allo spettacolo La Creazione Accidentale per oltre un mese in 7 città fra Italia, Belgio, Francia e Portogallo, a partire dal nostro Friuli Venezia Giulia. Un'esperienza di lavoro finalizzata alla formazione dell'attore e performer europeo, al confronto e allo scambio di competenze sui metodi e le pratiche di messa in scena, partendo da testi, lingue e linguaggi artistici differenti. Due le tappe in Italia, questa sera alle 19 alla Villa Manin di Passariano e poi al Piccolo Teatro di Milano. Ne abbiamo parlato con Rita Maffei, co-direttrice artistica di CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, che è partner dell'iniziativa. L'École de Maître è un corso di perfezionamento internazionale per attori a carattere itinerante. Parte da Udine perché il CSS è il capofila della cordata internazionale che coinvolge teatri francesi, belgi e portoghesi, e nell'arco degli anni ci sono state anche la Russia, la Croazia, la Slovenia, la Spagna, e come capofila l'École de Maître inizia proprio da Udine, dalla sede del CSS, per poi proseguire la sua itineranza in tutti gli altri teatri dei diversi paesi. E la volontà di Franco Quadri, che ha fondato l'École de Maître ormai 32 anni fa, era proprio quella di far sì che gli attori europei, a confronto con un grande maestro della scena internazionale, potessero confrontarsi in condizioni anche di, in qualche modo, di clausura, cioè andava a cercare quelli che erano le eccellenze del teatro nei diversi paesi, dove i ragazzi potessero concentrarsi e studiare insieme a questi maestri il confronto tra le culture teatrali dei diversi paesi di provenienza, per poi confrontarsi con i diversi pubblici dei diversi teatri in tutti i paesi. Quindi è un'esperienza molto territoriale, nel senso che ha contatto con i diversi territori che tocca, ma contemporaneamente estremamente internazionale, proprio perché mette a confronto attori di tutti i paesi partecipanti con i grandi maestri della scena europea. Libri e musica a Corno di Rosazzo in un doppio appuntamento orchestrato da Rocco Burtone a Villa Nachini Cabassi. Alle 20.30 l'incontro con Antonella Fiaschi e Luca Quarin, lei avvocata scrittrice, lui sassofonista mancato e scrittore. A seguire il recital concerto dal titolo Burro Crudo. Oltre a Burtone i protagonisti sono Barbara Enrico, Andrea Castiglione e Flaviano Miani. Altri spettacoli di oggi: a Trieste ritorna la rassegna teatrale per bambini La Corte Magica, organizzata da Hangar Teatri all'ex lavatoio di San Giacomo. Oggi alle 17 lo spettacolo intitolato Buio, scritto e diretto da Manuela De Santi con Tommaso Zanella, la storia di un folletto pazzerello ma fifone che ogni notte si dà da fare per accendere le stelle in cielo. Domani lo spettacolo Poppy, chiusura mercoledì con il laboratorio Emozioni a colori. Tutti gli appuntamenti sono a offerta libera. A Gradisca sarà presentata questa mattina alla stampa la nuova stagione del Teatro Comunale. Partecipano i vertici del Comune e il direttore artistico di Artisti Associati, Walter Mramor. L'appuntamento alle 11. Alle 7.48 minuti e 30 secondi la rassegna stampa, ritorno sui banchi col caro energia e le nuove regole, così titola il Messaggero Veneto. Alcune scuole superiori riprendono oggi le lezioni. Per il nuovo anno scolastico c'è però preoccupazione a causa del caro bollette e dei contagi Covid. Sulla edizione del Friuli la fotonotizia parla del trionfo casalingo di ieri dell'Udinese, travolta 4-0 la Roma di Mourinho, e bianconeri volano al secondo posto in classifica. In cronaca locale, Udine congela la COSAP, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico da parte degli esercenti. Confcommercio invita tutti i comuni a fare altrettanto. Poi l'arrivo alla procura friulana della procuratrice Laura Collini, originaria di Buia. Infine l'addio a 62 anni a Mauro Brizzi, allenatore delle giovanili, ha avuto un malore in casa. Un altro lutto colpisce il mondo della enologia: a 95 anni se n'è andato Gigi Valle, ambasciatore dei vini del Friuli Venezia Giulia nel mondo. Ci spostiamo sul dorso della destra a tagliamento, sempre del Messaggero Veneto. Cala la produzione, Electrolux riduce i contratti a termine. Poi il racconto del weekend nel segno della tradizione a Sacile, in 30.000 per la storica Sagra dei Josei, mentre a Valvasone si è rivissuto il Medioevo. Infine a Pordenone arriva la febbre degli scacchi, sono sempre di più gli appassionati che si ritrovano in bar e parchi. Sul Piccolo, edizione di Trieste, il titolo principale è sui ristori dopo il crack delle cooperative operaie. Nuovo rimborso da 5 milioni, la Camera di Commercio prosegue le liquidazioni, creditori silenti o irreperibili, si attende il via libera. Ma l'apertura del giornale è ancora sulla vicenda Varzila, con una foto della manifestazione di sabato. I lavoratori ringraziano la città per la partecipazione e dicono: ora siamo più forti davanti all'azienda. Fra i temi internazionali, le minacce della Russia all'Europa sul gas, e a livello locale ecco come corrono ai ripari sindaci, università e ATER, tra luci spente, termostati e chiusura di edifici poco usati. Dalla cronaca cittadina, progettata a Trieste, la parete d'arrampicata costruita a Capodistria nell'area sportiva di bonifica, 18 metri d'altezza, è stata inaugurata nei giorni scorsi con una gara di livello mondiale. L'edizione di Gorizia apre con il tribunale sotto organico. Collini, procuratore facente funzioni, trasferita a Udine, come abbiamo sentito, restano a Gorizia due soli magistrati. L'Isonzo è al centro della cronaca, da una parte con le emozioni per la regata isontina, dall'altra per la tragedia del 17enne annegato. Vediamo ora il Gazzettino. La prima pagina del dorso friulano parla del consumo di gas. Il Friuli è maglia nera. Nessuno nel nord Italia brucia così tanto combustibile in relazione agli abitanti. Poche rinnovabili e abitazioni vecchie. Lavoro agile per i dipendenti dell'amministrazione regionale che hanno figli. L'opzione del lavoro da casa è prevista da un provvedimento approvato dalla giunta regionale. In taglio basso si parla di viabilità, 4 maxi interventi per la sicurezza stradale. La regione mette sul piatto poco meno di 5 milioni di euro per il piano di manutenzioni straordinarie di FVG Strade. c'è spazio ovviamente anche per lo sport, non solo la splendida vittoria dell'Udinese sulla Roma, ma anche lo scatto del Tor Viscosa al ritorno in D, 1-0 sul campo del Mestre, mentre il Chiarlin Smuzzane resta inceppato sullo 0-0 contro la Clodiense. Sul dorso di Pordenone ancora la rievocazione storica di Valvasone e la sagra di Josea Sacile. In taglio basso troviamo lo Sport. Dopo il super esordio con la Triestina, il Pordenone accorcia il sogno promozione. In eccellenza, Tris del Chions, il Tamai si prende il derby contro la San Vitese. Infine, in taglio alto, una notizia di cultura, Bernardo Zannoni, che due sere fa ha vinto il premio Campiello a Venezia col romanzo I miei stupidi intenti, sarà a Pordenone Legge. Ancora qualche titolo dalle pagine sportive. La Gazzetta dello Sport dice: Roma, notte da incubo, Udinese travolgente, Mourinho prende 4 gol, sfuma il ritorno in vetta, e la Rosea scrive anche: Sottil se la gode e ora non dobbiamo accontentarci. Queste le parole del mister bianconero. Il Corriere della Sera ha un richiamo anche in prima pagina, nelle pagine interne, titola: Roma shock in vena di regali, una festa del gol per l'Udinese, giallorossi presuntuosi e distratti, Mourinho incassa il suo primo 4-0 italiano. Infine la Repubblica: Roma sparita, l'Udinese si regala una serata special. A Trieste la biblioteca 48 Gambini di San Giacomo ripristina da oggi l'apertura pomeridiana. Entrambe le sezioni, oltre che dalle 9 alle 13, saranno dunque aperte anche dalle 15 alle 18.30 dal lunedì al venerdì. Invariato l'orario del sabato, solo al mattino. Le informazioni aggiornate e il calendario delle attività per il prossimo autunno sono consultabili sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le notizie più importanti della mattinata a cura della nostra redazione. Alle 11.10 il programma In Friulano si occuperà della gestione della risorsa idrica, intervistando Giovanni Valle del Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale. Alle 11.20 andrà in onda la radio che pedala con la sua scelta di itinerari cicloturistici, e intorno a mezzogiorno l'appuntamento con fotoradiografia. Al centro della puntata odierna i rischi dei fotoreporter e le sofferenze interiori degli orrori che talvolta devono documentare. È tutto per questa edizione, che è stata realizzata da Lorenzo Gallinzoni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Carlo Morello e Alex Ollan, ha collaborato in redazione Samantha Gon. 7:54:30, ora le informazioni su traffico e viabilità regionali. Grazie per l'attenzione e a più tardi. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.